Lontano dal centro, devi urlare ancora più forte, ma non basta. Perché una volta che hai attratto l'attenzione, devi pure saperla mantenere, devi stuzzicare la curiosità di chi ti ascolta, devi dire e non dire, accennare a particolare, lasciare ad intendere senza lasciarla vedere, ma soprattutto gesticolare vistosamente. E questo Maria lo sa. Ettore, affacciate, Ettore! Te devo dare una notizia importantissima, Ettore! È capitato a me! Se tutto va bene, le persone che mi ascoltano da dietro le finestre o affacciate ai balconi saranno mosse da una sana invidia e dalla curiosità di ascoltare la storia che avete da raccontare. Se avete giocato bene le vostre carte, la signora Antonia del quinto piano rientrerà a casa e lo dirà al marito Mario, che proprio in quel momento sta scendendo per andare da Antonio, il macellario, a cui racconterà tutto. Lì la signora Bice ascolterà tutto e quando andrà dal sor Marco gli spifferà tutto. Sor Marco è il fruttivendolo e tra una busta di cipolle e una di patate lo racconterà ad una trentina di persone, compreso il fratello, il sor Giovanni. Il sor Giovanni si recherà al civico 175, che è il portone di fronte a quello dove abita Maria, e là lo racconterà al portiere, il sor Marcello. Il sor Marcello, seduto nella sua guardiola, nel via Pai della portineria, lo racconterà a tutto il condominio, compreso il sor Francesco. Il sor Francesco, salendo le scale che lo riportano a casa, in compagnia del sor Carlo, lo parleranno della vostra notizia, e sor Carlo entrerà a casa, senza voglia, senza neanche dar troppa importanza alla vostra notizia, lo racconterà alla moglie, Flaminia, che invece sarà presa dalla frenesia e dalla voglia di raccontare questa fantastica notizia. E allora si precipiterà alla finestra, spalancherà la finestra e lo dirà alla vicina, la signora Concetta, che le risponderà: ma signora Flaminia, ma questa notizia è vecchia! Solo in questa maniera la vostra notizia, nel giro di 20 minuti, sarà di dominio pubblico. E questo Maria lo sa. Ettore, dai, datte una sgrullata. Guarda che vengo su io, eh. Ettore, dai, scendi. Vieni giù, Ettore. Ci avevi ragione. E sti cozzi! Ai, idiota. Ce l'ha col sor Alvaro. Il sor Alvaro fa il guardiano notturno. È stata tutta la notte in giro. E adesso vuole dormire. Non gliene frega niente della storia di Maria. Ma Maria altrettanto gliene frega del sor Alvaro, perché Maria, come tanta gente di quartieri popolari, è fatta di pasta dura, un po' come Ettore. Ettore non è il fratello, non è lo zio, non è neanche il nonno. Tutti hanno la storia del nonno e tutti la vogliono raccontare. Se Maria dovesse raccontare la storia di qualcuno, racconterebbe la storia di Ettore, che è il suo vicino di casa. Maria, che ha un caratteraccio, e riesce a prenderla soltanto Ettore. Anche quando era piccola, la prendeva in braccio Ettore. Macchinista, macchinista, faccia sporca, metti l'olio nei stantuffi. In Italia siamo stufi. E lei si addormentava tra quelle mani grandi, gonfie dei calli, sporche dagli oli, dagli sbuffi, dai vapori della macchina. Si addormentava tra quelle mani da macchinista. Quella roba dalle mani di Ettore non va più via, ma Ettore ci ha fatto l'abitudine. È stato il suo lavoro e il suo malgrado è stata la sua vita. Ettore, quando deve parlare con Maria, la guarda negli occhi. E Maria, che ha un caratteraccio, lo ascolta. Forse perché Ettore ha degli occhi grandi, o forse gonfi, sempre lucidi, come se fosse sempre commosso. Ma se gli occhi di Ettore brillano, è perché sono sempre aperti. La sua vita e il suo lavoro questo gli hanno insegnato: guardare sempre dritto. E se qualcosa non va per il verso giusto, intervenire. Ettore, Ettore! Mamma mia, Ettore, vieni, corri! Andiamo a festeggiare perché oggi sono diventata ferroviera! Fa fregare le cose prima di mangiarle, guardale bene e guardale bene pure prima di buttarle. Ha capito? State attenta, Marì. Buon viaggio. Ma che sta a dire? Ma guarda che faccio, sì! Guarda che so anni che nelle ferrovie dello Stato non fanno altro che parlare di alta velocità. Ma come che è? Non lo sai? Ma dicono, che ne so, guarda, che dicono che te praticamente da Napoli, dal sud Italia, te ne vai su fino in Francia in pochissime ore, certo. È tipo, che ne so, tipo Napoli-Roma un'ora, Roma-Milano 2 ore, Milano-Torino 1 ora e Torino-Lione te 2 ore. Manco Superman! Te lo dico io, già me ce vedo. Ah, su quelle locomotive, io come il capitano Kirk, io sull'astronave di Star Trek. Ehi, Spock, andiamo a tutta birra verso l'iperspazio. Sì, ah, raga, ma mica tutti erano d'accordo, ma no, ma se figurati. Schimberni, quello, il presidente delle ferrovie di prima, quello non era d'accordo, no che non era d'accordo. No, diceva che la ferrovia storica era altamente competitiva e bisognava solamente rimodernizzarla. Te! Guarda che non ci aveva mica tutti i torti, hai capito? Io mi faccio Viterbo-Roma, so 70 chilometri, lo sai quanto ci metto? 3 ore, sì, 3 ore, pensa un po' a 3 ore. Quindi, insomma, una cattiva idea non sarebbe stata. E vabbè, ma voi mette con l'alta velocità o Schimberni non era d'accordo. Infatti, l'hanno fatto fuori, certo. E meno male che è arrivato Necci nel 1991. Coppa, quello neanche ha messo piede nelle ferrovie dello Stato. Si è inventato la TAV S.P.A. Gli anni 90 partono alla grande. I lavoratori sono contenti perché ci saranno più posti di lavoro. I passeggeri saranno contenti perché non si dovranno fare più 12 ore di viaggio. E lo sai chi è anche d'accordo? Agnelli. Quello delle macchine. Certo. Guarda che se uno prende il treno, non pia la macchina, quindi che motivo c'ha Agnelli? De fai treni efficienti? Quello che Maria non sa è che Fiat, Iri ed Eni sono general contractor per i lavori dell'alta velocità. Ma che cos'è un general contractor? Allora, lo Stato affida ad un soggetto privato, il general contractor, senza alcuna gara d'appalto, i lavori per una grande opera. Il general contractor progetta e realizza l'opera, però non si assume alcuna responsabilità dal punto di vista amministrativo ed economico per la gestione futura. Quindi di fatto non si assume il rischio di impresa perché a quello ci pensano i cittadini italiani. Ed è così che è facile fare l'impresa in Italia, è facile diventare imprenditori perché più durerà l'opera e più costerà, più il general contractor farà i soldi. E allora è così che l'IRI, l'ENI, la Fiat E poi Montedison, Impregilo, Cogem, Gavio, Ligressi e infine anche i compagni delle cooperative rosse della CMC hanno alimentato questo meccanismo che nel giro di pochi anni ha fatto lievitare i prezzi preventivati dell'alta velocità di 4-5 volte. Nel 91 un chilometro di TAV costava 9 milioni di euro, che è la media europea. Nel 2010 siamo arrivati a pagarla 89 milioni di euro. Ma non vi preoccupate, non mi allarmate, perché nel 2020 hanno detto che finalmente i lavori dell'alta velocità saranno ultimati, tutti i cantieri saranno ultimati. E in quel giorno noi avremo già speso 100 miliardi. Preventivati, sempre che i lavori saranno ultimati e che tutte le ditte si comporteranno in maniera onesta e che la natura, bontà sua, non si riprenderà il mal tolto con qualche svuotamento, qualche frana in galleria, come del resto è già successo. E in ogni caso, da quel giorno gli italiani inizieranno a pagare la modica cifra di 2,2 miliardi di euro all'anno di interessi alle banche per 30 anni. Questo succede, lo sai perché? Perché non ci sono i controlli. No, i controlli ci sono. Ad esempio, sulla tratta Roma-Milano, l'Impregilo è stata incaricata di controllare i lavori eseguiti dalla Cogem. Ma di chi è la Cogem? È dell'Impregilo, no? E di chi è l'Impregilo? È della Fiat. Quindi l'avvocato Agnelli è più che interessato ai lavori dell'alta velocità. È interessatissimo. Sì. Sarete solo voi ad essere scannati. Allora, salta su questo treno che va verso il progresso. Non so neanche questa parola vuol dire niente, ma fa lo stesso. Progresso vuol dire che io vivrò in un castello, mentre voi vivrete in un cesso. Sì, la voglio, è mia e si farà. Ingegneri, che ne sono formato comitati d'opposizione, comitati di quartiere, di condominio, di pianerottolo, per dire di no. Ma sono cose che non si possono sentire. Dai, Mario, ma preparate un caffè e falla finita, lascia sta. Ma che a Roma, dai, guarda a Roma, stiamo come stiamo, so 2000 anni che abbiamo fatto tutto e siamo sempre andati avanti. Ma fatti che io, ma fatti che? Ma che sta di infatti? Ma fatti fatti tuoi infatti, sta infatti, guarda sta faccia infatti. No, la Salerno Reggio Calabria che? Che la Salerno? Lascia sta che non è ancora finita, eh? La Salerno Reggio Calabria so tanti di quegli anni che è data a lavorare un sacco di gente. Ma falla finita, meno male che al sud i lavori sono già iniziati, va. 1995, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Stazione di Apregola, stazione di Apregola. Oh. Buongiorno. Buongiorno. È che sei nata in un natalmente. Ah, ottimista, eh? Oh, ottimista. C'è sta poco essere ottimista. E perciò siamo arrivati grazie agli industriali del nord che ci hanno scaricato tutta la loro bella munnezza rinda la terra nostra. Ma ci mancava pure sta struzzata Natale, potete? E che grande opera! Forse lei non lo sa, ma Apregola sarà un polo ad alta densità e capacità. Importantissimo a livello europeo. Certo, perché collegherà il sud del nostro paese fino su l'Europa. Ma dimmi, ma mi insegni nel corso di formazione per ferroviere, si struzza. Piccere, tu mi sa che non hai capito bene una cosa. Cacà non vanno a fare. Il grande polo di comunicazione del Mediterraneo. Che non vanno a fare la ferrovia. Che vanno a fare la porta. Vanno a fare i soldi. Quelle sì che vanno a fare. E coppa. A parte il fatto che i sordi li vogliono fa tutti, eh? Gli apparti daranno da lavorare un sacco di gente. Oh, ma ci facciamo ricotto con chi li quattro soldi cacciarata. Ui, a me, hai capito? Sono nero. È la povera che mi fai anche. Ma avevano detto, anzi, ci avevano detto, che una volta finiti i lavori per l'alta velocità, avrebbero rifatto le strade. E invece, povero, avrebbero rifatto le scuole. E invece, povero, avrebbero rifatto i parchi. E invece, povero, povero, povero, ci hanno detto solo povero. Solo povero ce l'hanno. Solo povero ce l'hanno. Povero. Povero. Io certa gente proprio non la capisco. C'è lavoro e se lamentano. Non c'è lavoro e se lamentano, ma dico io. Ma è meglio andare a lavorare onestamente in un cantiere dell'alta velocità che finire in mano nelle grinfie della mafia, o no? E se noi licenziamo qualche sindacalista, sta minchia qua qua qua, tu che fai? Moto! Oh, e se noi per esempio facciamo circolare un poco dei nostri soldi e te dico dei nostri soldi? Moto deve stare bravo! Ottimissimo. E se compiamo le cifre per metterla a lavorare, sai? Un poco di gente nostra che tengono famiglia, quella famiglia sacra! Senza dar conto a quelle cose che ci chiede lo Stato e che te noi ci dovrebbero ringraziare! E invece IMSS, INAIL, ti afferra tutta questa minchia di qua, minchia! E allora, è uno schifo, Se muore un operaio, personaggio, tu, che minchia fai? Muto! Ecco, bravo! Ugabis! Tutto capito. Allora, don Calogero, ci ho capito bene. Lo Stato dà i soldi alla Fiat per fare l'alta velocità, giusto? Ora la Fiat ci tiene un 20% per il disturbo, don Calogero, no? Ci tiene un 20% e passa il restante dei soldi all'Impregilo, che pure ci tiene un 20%. Per il disturbo, don Calogero, il restante dei soldi, ovvero un 60%, va a me, la mia dieta. Io vengo da lei e affitto le macchine, gli operai, gli ingegneri, tutta questa gente qua. Ora, don Calogero, è fondamentale, per fare tutto quello che dice lei, usare un altro 20% per pagare gli sindaci di destra e di sinistra. Perché altrimenti, don Calogero, tutte le schifezze, noi dove le mettiamo se non nella terra dei sindaci? Bisogna ungere, mi sembra ovvio. Ora, don Calogero, è fondamentale inserire nell'affare anche il Corriere della Sera e la Repubblica, perché altrimenti come si fa? Per il tempo non ci deve preoccupare, perché è tutta cosa nostra, capito? Oh. E meno male, don Calogero, meno male che gli amici nostri controllano i lavori, così lei può fare come li può, come vuole nei suoi cantieri, lavoro nero, la sicurezza sul lavoro, non ce ne frega niente, sono tutti amici nostri, ha capito, don Calogero? E meno male che rimane un 20% per fare i lavori, altrimenti dove li prendiamo questi soldi, don Calogero? Personaggio, sì, devo chiedere un ultimo favore. Dimmi tutto, Calogero. I sindaci ci vogliono chiedere di fare le presentazioni per far stare tranquilla la gente. Non capisco, non capisco. Poi gli alberelli di plastica, le cosette di plastica. Ho capito, don Calogero! Lei sta mettendo il dito in un problema annoso, che è quello delle pubbliche relazioni. Va bene, don Calogero, ma lei con chi crede di avere a che fare? Noi siamo preparatissimi e abbiamo già tutto pronto. Calogero, tu adesso non ti devi preoccupare più di niente, capito? Perché adesso è tutta cosa nostra, ha capito, don Calogero? Bene. Stai bene, Calogero, Faremo grandi affari! Cammino! Cammino! Figa, ti prepara un caldo! Cammino! Come lacrime fugge dal cielo, cadevano sui binari i corpi dei sapienza. Ammazza che gli hanno combinato. Certo che qua non si sono proprio regolati. Oh, buongiorno, signor. Se fa presa, tipo giù. E io costo pure a metro da casa mia che mi copre il sole qua, non vedo sto giorno. Gli dà fastidio. Chi? A me? Ah no, io sto da paura. Tutta la notte, tutto il giorno, i polveri, i rumori, la puzza. Sto una favola, e pure i ragazzi dalla scuola qua a fianco stanno una favola. Vabbè, ma gli avranno dato un risarcimento. Ah certo, e come no, ci hanno preso uno a uno, hanno fatto le trattative a tre persone. Hanno dato qualcuno di più e a qualcuno di meno. Così ci hanno diviso. E poi siamo venuti pure a sapere che a qualcuno gli hanno dato la casa. E a me mi è roduto il culo, eppure ad altri, perché se lo sapevamo, ci pigliavamo la casa pure noi, no? E invece no. L'hanno data solo a chi volevano loro. Allora noi abbiamo scritto al sindaco. Abbiamo scritto al presidente della provincia, al presidente del municipio, al presidente della regione, al ministro dell'interno, al presidente del TFR, al presidente dei Ferrovie dello Stato. Ma che vanno risposto? Li stiamo ancora ad aspettare. Questi parlano di futuro. Ma se non riesco manco a vedere il presente, di quale futuro posso parlare? Questi ci seppelliscono vivi. Questi fanno come gli pare. Qua, a Tor Sapienza, c'è gente che si è data fuoco. Si è data fuoco! Pa' la casa. E nessuno gli ha dato importanza. E lo sai perché? Perché la vanno fa quest'opera. E per far st'opera ci seppelliscono. E seppelliscono i genitori. E seppelliscono pure i figli. Sto viaggio sta diventando lungo. Meno male che faccio pausa. Quando Maria lavora è cambiato, sì. Quando era giovane Maria era estroversa, era sobillatrice. C'era addirittura chi diceva che Maria fosse violenta, ma Maria non era violenta, no. E che seguiva una sua filosofia. Quando c'evo. Infatti una volta venne a scoprire che l'amministratore di condominio faceva la cresta sul petrolio dei riscaldamenti del palazzo. Lei si mise a sedere sui gradini del portone e lo attese. Yo, bada che te vado. E la prossima volta te corco. I politici sono come l'amministratore di condominio del Palazzo di Maria. Non si occupano più di gestire il bene comune. Occupano le istituzioni solo per divorare le risorse pubbliche. Non sanno minimamente cosa vuole la gente. I loro programmi sono vaghi. Dopo Tangentopoli, i lavori dell'alta velocità sono diventata la maniera con cui politici inutili di partiti di carta si scambiano favori con manager carogne di imprese virtuali, senza più quelle scomode tangenti, le mazzette. Un tempo le tangenti servivano a pilotare i lavori pubblici. Ora l'intera sfera pubblica, spesa pubblica, è un enorme maxi tangente, una busta nera. Non può contenere gli appalti truccati, le carriere, i regali, i gioielli, le macchine, le consulenze, le ville, le case al Colosseo, le escort. Adesso per tutti questi interessi c'è bisogno dei treni! C'è stato, che aveva fiutato il nuovo meccanismo del malaffare, ma le macchine sono saltate e le corde si sono strette ai colli. Maria vede la società come un quadro di Escher, dove nessuno, in ciascun punto esso si trovi, riesce a trovare una via d'uscita da questa china discendente. Noi non possiamo più dire di no alla TAP, certo, perché la tratta Napoli-Torino è fondamentale per tutta l'economia italiana. Questa è un'epoca di grande interesse, e di grandi interessi, certo. E poi non possiamo certo dire no ai finanziamenti europei. Senza dimenticare, ragazzi, che ci sono i fondi nazionali messi a disposizione dal CIPE per le aree sottosviluppate, che noi metteremo a disposizione per ristrutturare le scuole. No, noi metteremo a disposizione per il risanamento ambientale. No, li utilizzeremo per le infrastrutture museali e archeologiche? No! Li utilizzeremo certamente per la ricerca e l'innovazione tecnologica? No! Li utilizzeremo per le infrastrutture di mobilità strategica? No! Ma certo li utilizzeremo per la TAP, un'infrastruttura totalmente inutile! Uè, ragazzi, mica possiamo lasciare il nostro paese in mano a quel della destra! Prudenti! Ladri! Perché non dite che la TAP è fondamentale per l'economia del nostro paese? Ma noi faremo viaggiare anche le merci! Treni lunghi un chilometro! Magari vuoti, ma lunghi un chilometro! Il suo fantastico nome sarà Treno ad Alta Capacità! Ah, mettetemelo in testa! Tutti abbiamo bisogno di una TAP! Ugarti, ladri, perché non dite che la TAP è fondamentale per tutta l'economia italiana? Ce lo chiede l'Europa! Pare, pare, vino, vino! Ma di su ce ne può più dire di no! Oh, ci sono i terroristi! Esatto, ma tu sei un comunista! Sono fascista! Oh, non ti può più dire di no! Thank you. facciamo una strozzata, il popolo non fa una piega, se la gente è incazzata, non ci importa se è una sega, quando poi facciamo le leggi, siamo amati ai nostri senti. Probabilmente non ci possono passare. Ci passa il TGV francese. E allora se ci passa il TGV francese, hai capito? Tu. Vuol dire che ci sale tanto di quella gente che hanno bisogno di fare un traforo in più, una ferrovia in più, qualcosa di più. Non via nessuno. E non la vierà pure nessuno, tesoro mio, Però no, lo vuoi sapere che ho sentito in televisione? Sì, in televisione, allora che c'hai contro la televisione, Da dove le pio io le informazioni secondo te? Da televisione. Certo, hanno detto che cambiano il progetto da alta velocità in alta capacità perché ci devono trasportare le merci, hai capito, là dentro. E le merci del nostro bellissimo paese devono passare tutte dentro a quel buchetto, devono arrivare in Europa, invade l'Europa, invade il mondo e dal mondo torna dentro l'Europa e ripassa tutte dentro quel buchetto, hai capito? E ce la dobbiamo accollare tutta noi, quelle merci, tutta noi, ce la dobbiamo soffocare con quelle merci. Hai capito? O non mi fa nervosi che devo andare a lavorare. Ma che senti? Ma che stai a dire? Cioè tu mi vuoi far intendere che la ferrovia c'è, ci passa all'alta velocità pure le merci ed è utilizzata solo al 30% delle sue potenzialità? No, la devi far finita, la devi far finita, no, Nicci non me lo dirà fuori, Nicci, hai capito? Quello, no, lo so, quello, lo scandalo tangenti, ma che non lo so, guarda che io sono una tipa che si informa, hai capito? Si è inventato il sistema Nicci, per ripartire le tangenti a destra e a sinistra, ma che non lo so, se rubano i soldi, ah bello, se rubano i soldi, guarda che qua a casa tua in Italia se li rubano tutti i soldi. Sì, certo, hai capito? E quelli che non se li rubano stanno sotto a quelli che se li rubano, Ma questo è il solito ricatto, bello mio, a picchio, è il solito ricatto, hai capito? Se te c'hai bisogno di lavorare, te stai zitto! Se Se te c'hai fame, te stai zitto. Se hai bisogno della casa, te stai zitto. Se c'hai figli, te stai zitto il doppio. Certo. Cos'è il problema tuo, Valerio? Che mi dai fastidio. Madonna, quanto mi dai fastidio te. Ah, Mario, hai fatto sto caffè? Lasciami sta. I soldi, i finanziamenti. A bello mio, guarda che i finanziamenti per l'alta velocità, fatti i serti, hai capito? Una parte ce li mettiamo noi, una parte ce li mettono i privati e una parte ce li mette st'Europa. Hai capito? Se no che ce famo con st'Europa? Ci andiamo solo sotto, praticamente. Ah, Mario, lascia sto caffè che sto a fatarvi. Ma dove prende tutti questi soldi lo Stato per fare l'alta velocità? 100 miliardi di euro. Quello che Maria non sa è che un terzo di questi soldi lo Stato li prende dalla finanziaria, no? Tagliando sulla sanità, sull'istruzione, sui servizi e su tante altre cose simpatiche. Un altro terzo di questi soldi lo Stato li chiede in prestito alle banche. Poi li rigira ai privati. I privati fanno i profitti e indovinate chi si accolla il rischio d'impresa? Un altro terzo di questi soldi sono un vero e proprio furto. Trenitalia prende dallo Stato 4 miliardi di euro l'anno per garantire il servizio universale delle ferrovie dello Stato. Sentite com'è bella questa parola, servizio universale delle ferrovie dello Stato. Cioè che chiunque sta in Italia ha il diritto, dovunque esso si trovi, a prendere il treno e a utilizzare le ferrovie. Trenitalia invece no, scippa una buona parte di questi 4 miliardi per investirli in un progetto che farà viaggiare solo il 5% della popolazione velocissimamente su treni ad altissima velocità, mentre il restante 95% degli italiani continuerà a viaggiare su treni sporchi, stretti, sempre in ritardo. Espresso. Li hanno tagliati qualche anno fa. Intercity. Si stanno spegnendo piano piano. E i notturni? Li hanno fatti fuori qualche mese fa. Ma la cosa più triste è che quelli che ci stavano sopra sono stati licenziati e sembra una cosa normale. I finanziamenti europei di cui parla Maria sono un fantasma che i politici sventolano di fronte ai propri cittadini, perché quei soldi, quegli spiccioli, serviranno soltanto per coprire una piccola parte degli studi di fattibilità del traforo del Mongenisio. Non serviranno a fare il traforo e neanche la ferrovia, perché la verità è che l'alta velocità la stiamo pagando noi e la pagheranno pure i nostri figli. L'alta velocità la pagheremo cara! Mugello, quanto è bello! Meno male che i lavori qua per l'alta velocità non hanno sfondato sto bellissimo paronato. Certo, ci hanno fatto delle colate di cemento che lo rodono dall'interno, però l'impatto ambientale pari zero. Ah sì, e lei qua che ce fa? Thank you. guardare a modino le cose prima di mangiarle, ha capito? E la devi guardare bene pure prima di buttarle. Via, va! Ora fa buon viaggio, vai, va! Bimbetta! La verità è che l'alta velocità sta negando l'accessibilità ai treni, alle ferrovie. E certo, perché i biglietti dei treni stanno diventando sempre più cari. E non solo, hanno centralizzato tutte le stazioni. Grandi stazioni, enormi nei grandi centri urbani. Quindi, se vivi lontano da un grande centro urbano, ti devi arrangiare. Antonio è un operaio di forno. Lavora a Torino, fa l'operaio a Torino. Il venerdì sera, fino a qualche anno fa, correva in stazione a prendere l'espresso notturno, saliva sullo scompartimento, scambiava due chiacchiere con l'amico, con collega, e poi si addormentava. E tutta la notte viaggiava cullato dal treno. Si svegliava forte. Passava il sabato e la domenica in santa pace con la sua famiglia. E la domenica sera, notte, tornava alla stazione di Foggia. Prendeva l'espresso, scambiava qualche chiacchiere con l'amico dentro lo scompartimento e poi si addormentava e tutta la notte viaggiava cullato dal treno. Arrivava a Torino, si svegliava e andava a lavorare. Adesso Antonio non lo può fare più. Certo che c'aveva ragione, Amadio, così. Certo, le cose stanno andando male, ma mica perché si rubano i soldi. Magari fosse solo quello. Amadio, qua ti impediscono di parlare, ti impediscono di dire la tua, ti impediscono di fare qualunque cosa. Se non ti sta bene una cosa, Amadio, non si cantano messe, come si dice dalle parti nostre, è così. No, Mario, no! No, Mario, fidati, fatti servire, questi fanno come gli pare, Mario! Ma che stai a dire? No, no, sì, pure prima si stava male, ma certo, ma quando mai? Avevamo noi la felicità, cerchiamo di raggiungerla, ma quando mai? No, Mario, perché prima te, per fare una grande opera, un grande progetto, te dovevi passare, che ne so, quantomeno per una commissione di via. No, è una commissione, un po' di persone, insomma, che ti controllano il progetto, come che è? No, tu gli presentavi a questa commissione chiamata via un bel progettino definitivo con i costi definitivi, tutti preventivi, belli, così. E però loro mica se leggevano solo il progettino tuo, se leggevano pure il progettino e tutte le lamentele e le relazioni dei comitati, degli enti, delle associazioni del territorio su cui il tuo bel progettino, gli doveva andare a finire nel collo, certo, così è. E invece mo non è più così, perché c'è stava, come si chiama, quella legge là che hanno fatto, bravo, la legge obiettivo. Con la legge obiettivo, te, la commissione di via praticamente non esiste più, non appare vincolante. No, no, non l'hanno eliminata, no, la pagiamo ancora, ma non serve a niente. E no, è quello che sto a dire. E te gli presenti adesso il tuo bel progettino de massima, con i costi de massima, e al territorio non te lo fili più. E come niente niente, se gli presenti il progetto de una gratta checca, te vai fa il bel centro commerciale sul litorale. Così, Mario, funziona così! E te non gli vuoi di niente! Questa è la verità. Non stai così, che mani legate, te lo dico. No, no, quelli fanno come... Lo sai chi l'ha fatta la legge Lunardi? Lo sai chi... No, no, la legge obiettivo. Ecco, bravo, l'ho detto, certo, Lunardi. È Lunardi, quello lo sai che fa dei mestieri, per guadagnarsi la pagnotta, lo sai che fa? Ah, non lo sai? Te lo dico io. Intanto preparami il caffè, ti preoccupate. Te lo dico io, quello costruisce le autostrade, costruisce le ferrovie, costruisce ponti e costruisce pure le gallerie. Ti dice niente, Mario, la parola galleria? A te no, a me sì. No, non l'ho visto in televisione, mi sono andata a informare, per conto mio mi sono andata a informare, e allora? Ma guarda un po', certo che no, No, no, sto per una truffa. So anni che la Corte dei Conti dice che sto per una truffa. Che veramente lo diceva pure mia madre. Lascia sta. Vabbè, ma mia madre non la sente mai nessuno. Che non lo so. Lo so. Lo so. Eppure. Lo so, lo so. Come mo? Ma mo che? Ah, Mario, ma mo che? E mo se fa morote però, eh? E dai. Nella società di comunicazione, per giustificare una grande opera, non necessitano più dati certi. Basta avere uno slogan efficace, una faccia pulita, un jingle accattivante, un logo fantastico che anche l'opera, per quanto inutile essa sia, diventa fondamentale per il benessere dell'umanità. Quando si realizza una grande opera, bisogna fare scendere in campo la democrazia d'emergenza, secondo la quale i diritti di opinione, di parola, di scelta, di manifestare, di dissentire sono validi, sì, fin tanto che nessuno li utilizza. E se qualcuno li utilizza, bisogna fare scendere in campo quella determinata stampa che trasforma l'opposizione in violenza e il dissenso in un problema di ordine pubblico. Essere o non essere. È questo il problema. Se sopportai i sassi o le frecce, quella qua rossa, quella argento, fa verde, che ci scaglia il governo, oppure, che ne so, fasse forza e scagliasse contro il mare del malaffare, che ci lascia con gli interessi tutte queste afflizioni, eppure debiti, e dagli, porre loro una fine. È proprio sto dubbio che lascia alla sventura una vita così lunga. E lasciami, che devo scendere da sto treno, ma che non lo vedi? Certo, ci siamo rimasti, mi pare troppo a lungo, ci siamo rimasti sopra mentre inquinava una fragola, ci siamo rimasti sopra mentre muravano le case a Roma, ci siamo rimasti sopra mentre a Firenze e a Bologna gli minavano le fondamenta, ci siamo rimasti sopra mentre ingrandivano l'inceneritore, ci siamo rimasti sopra mentre facevano la tratta delle prostitute, ci siamo rimasti sopra mentre schiavizzavano la gente, ci siamo rimasti sopra, mi sembra troppo a lungo. E mo ci voglio scendere, sì, voglio scendere, sì, in questa bella valle a quattro passi da Torino, sì, qua voglio scendere, in Val de Susa. E allora? Tutti vogliamo essere felici, tutti dobbiamo lavorare, tutti dobbiamo essere leggeri e non starci a pensare troppo. Ma sto treno va fermato. Essere nottavo. Essere nottavo non è solo una questione pratica di bloccare un traforo inutile. Essere nottavo è una questione di dignità, è una questione di volontà, è una questione di libertà, è una questione di scelta. Essere nottavo è una questione che chiama la terra alla difesa. Troppo schifo su sto treno abbiamo ingoiato e troppe volte ci siamo giustificati, troppe volte siamo rimasti a guardare il nostro orticello mentre tutto torno crolla. Ma che dobbiamo fare, supereroi? Ma no, basta starci, basta guardarsi intorno, guardarsi negli occhi e capi che la realtà, il futuro che tanto agogniamo, passa attraverso di noi, mica attraverso le concessioni che ci hanno insegnato ad aspettare. E aspetta, va, aspetta, aspetta e spera. Amario, Amario, Amario, ma che non, Amario, ma come Amario? Aspetta e spera. Ettore, Ettore, ma non t'avevo detto, Ettore, non t'avevo detto che ci sono molte parti d'Italia in cui si può essere nottavo. Ettore, non t'avevo detto che ci vogliono tappare la bocca per farci ingoiare il boccone più amaro. Ettore, non t'avevo detto che lo Stato ci vuole mettere paura e allora ci manda l'esercito. Ma chi supera la propria paura afferma la propria esistenza, afferma la propria volontà, afferma se stesso. Ettore, non t'avevo detto che chi non combatte sta lotta, ovunque si trovi, si perde un pezzo di vita. Ettore, non t'avevo detto che io mo da sto treno ci sono scesa e non sono da sola. E lo sai che famo? Mo l'andiamo a fermare sto treno.